finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Straordinario. Allora, dicevamo, stavamo stabilendo qua le regole del gioco. Questa è la trasmissione geriatrica del mercoledì. Caronta i controlli, proprio abbiamo lasciato a lui baracca e burattini. Sta bene lì. Ci provo. Tranquillo. Ci vogliamo ricordare dei genitori, se ci stanno ascoltando, che siamo assolutamente sì. Dei genitori di Roberto, ciao. Questa è la trasmissione. È la trasmissione di Roberto, insomma. Dicevamo appunto un anno fa, io questo è quello che mi ricordo, e cioè che osservavamo, a parte, come dire, un po' i ricordi dell'amore nostro, università, i GAU, concerti, attacchinaggi, eccetera, ma insomma ricordavamo che non abbiamo francamente più molte lacrime per piangere, però insomma il vuoto che ha lasciato è ancora estremamente grande, e non sempre riusciamo a ricordarlo come vorremmo e quando vorremmo, ma questa sera sicuramente un abbraccio particolare, oltre che a lui, insomma, che fondamentalmente non era un tipo che amasse la retorica, però il nostro abbraccio più grande io credo che debba andare, insomma, a Antonio, a Gabriella e alla sorella Alessandra. Ad Alessandra, sì. Antonio e Gabriella, che sono i genitori di Roberto, non più giovani, insomma. Sì. Di problemini, qualche acciacchetto che però abbracciamo tanto. Non siamo riusciti quest'anno ad andarli a trovare il 15 di febbraio, il giorno in cui ricorre poi la triste dipartita di Roberto, però insomma cerchiamo di farlo comunque dalla radio e di rendere collettivo anche insomma questo ricordo, che ci piace comunque ogni anno rifare, ma appunto poi non è un ricordo, come dicevo poc'anzi, perché poi rividiamo essenzialmente, ci abbiamo ancora delle cartucce da spendere proprio per Roberto. Sì, sì, esattamente questo, anche perché poi la giornata della trasmissione tutti insieme riduce molto la in realtà io come voi ce lo ricordiamo tutti i giorni, insomma, e quindi però questo simbolicamente, visto che anche i genitori, la famiglia ci sta ascoltando, lo ricordiamo, ma lo ricordiamo sempre, insomma, e i dischi sono un passaggio costante tra noi e lui. Oddio, in realtà ricordiamo anche la nostra età, qualche annetto ce l'abbiamo anche noi, insomma, ce lo ricorda il fatto che non ci vediamo più sui cursori, sui monitor, servono gli occhiali, ce lo ricordiamo camminando per le strade di San Lorenzo, dove ormai tutto è estremamente cambiato, mutato, sì, trasformato. Esatto, rabbellito, diciamo, il mercato è perimetrato, i marciapiedi sono ben rialzati e visibili, insomma la gente è apparentemente molto più, come dire, trendy e disponibile. Un quartiere profondamente mutato, ma mutato anche in alcuni aspetti che di nuovo osservavamo prima, insomma, per la strada ci ricordano la nostra età. L'aneddoto che mi riguarda era relativo alla signora del bar Marani qua sotto, che io personalmente non ricordavo fosse scomparsa, e ero venuto qualche settimana fa al cinema, ho trovato la figlia e come un fesso ho chiesto informazioni della signora, che poi ho capito dopo fosse la madre, ed ecco, mi ricordo che nel momento della consapevolezza, insomma, sono stato colto da un freddo, quello che Jill Scott ricordava 40 anni fa, insomma, il freddo in America era un freddo abissale, diciamo così, il freddo culturale. Ma noi comunque la cosa che sappiamo fare meglio, non lo so fino a che punto bene, meglio delle altre, è quella di mettere dischi, mettere musica, alternarci con delle parole, dei ricordi, eccetera, è quello che faremo questa sera. Ti chiedo a te se sei pronto, perché lì c'hai tutta una scaletta pronta, preparata. Io dovrei, secondo quello che mi hai spiegato, dovrei essere pronto. Sei ispirato? Sono ispirato nel senso che devo mettere gli occhiali, ovviamente. Okay. Se no facciamo iniziare il Conte. Come niente preferite. Più facile che ha dei CD, degli splendidi CD, facili da usare, come la vecchia maniera. No, volevo... Sì, vai. Sì. No, dico avrei... No, volevo ricordare che siete l'ascoltatore della Ronda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, che c'è, andando sul sito, in corso, la campagna di sottoscrizione di sostegno alla Ronda Rossa, che si chiama 30 per 1000, che significa 30 euro per 1000 ascoltatori e ascoltatrici, che significa 30.000 euro l'anno, che è quanto serve alla radio per trasmettere per un anno. Vi chiediamo questo piccolo sforzo, si tratta, come lo diciamo spesso, di due caffè al mese, poco più, e quindi insomma dai, rinunciamo a due caffè o facciamoci la casa con la macchinetta e sottoscriviamo e sosteniamo un anno di Onda Rossa. Va bene, dicevamo, avrete notato insomma che dopo oltre 30 anni comunque le cose le facciamo a braccio, diciamo, non c'è proprio verso di farlo diversamente. E allora però tra i primi ricordi insomma simpatici, anche perché molto probabilmente sia Gabriella che Antonio ricorderanno, ma anche Alessandra all'epoca era ancora a casa con loro, ricorderanno insomma queste migrazioni sia estive che natalizie, allorquando con il giovane cubo umano, insomma l'amore nostro, anche detto Nano Malefico, facevamo questi traslochi tra dischi e frigo bar, all'epoca questi col valigione tipo picnic, insomma, che riempivamo ovviamente di bottiglie. E in uno di questi traslochi, che era appunto quello dedicato allo speciale Babbo Nasale, ricordavo prima col Conte che ho recentemente insomma messo mano ai fogli, ai pezzi di carta col palinsesto, la scaletta, insomma era tutto, era fatto a braccio, ma c'era diciamo un amore anche per i dettagli, un amore minimalista per i dettagli. E questi intanto sono Die Pretty, ovviamente non possiamo evitare di partire dall'Australia, insomma è il periodo, tra l'altro il periodo che è andato l'anno scorso, che era tipicamente concentrato sugli anni 80, ruotava intorno appunto al triangolo, diciamo, come dire, europeo, australiano e statunitense per quanto riguarda il filone della neopsichedelia, e Die Pretty ovviamente ne sono degnissimi rappresentanti. Io direi di rimandarli da capo, se sei facilissimo. Yes. I microfoni erano aperti, vabbè, ma cioè, questo fa tutto, è sempre la stessa storia, diciamo. E l'ha mandata da capo. Final Twist è un'ultima tempesta, insomma un po' definitivo come brano iniziale, però dai, va bene. Dance. e quanto gli piacevano e quanta bellezza, direi. Delle ballate soft, direi ridondanti, mai cupe, forse un po' tristi, ma mai cupe. Non era proprio nel loro spirito, e questo era anche il motivo per cui il nano li ascoltava. Ecco, non era mai cupo, era magari incazzato, era triste, ma cupo non l'ho mai visto. Questo attacco dei Diet Pretty, e così saltando, come si diceva o come dicevamo ancora, di palo in frasca a 360 gradi dentro questa sfera caotica che è il rock and roll, passiamo a ascoltare un brano che non ho mai potuto ascoltare con lui, recente, del 2006, Arcade Fire dal Canada, Nightbird. Yeah. Ebbene, dal Canada rimaniamo comunque in atmosfere occidentali, sebbene di nuovo in Australia, e come dire, le ballate sono abbastanza paragonabili, un po' più frizzanti. Conte ricordava il concerto, il loro concerto, stai ascoltando Yudu Gurus, 1000 Miles Away. Now you're flying. I got so much work in front of me. Really flying. It stretches out far as the eye can see. I can see. Spend half my life in airports doing crosswords or attempting to sleep. When the bar is open, then you'll often find the warming a seat. Now you're flying. I never find a place where I can stay. Really flying. I'd rather be 1,000 miles away. 1,000 miles away. Sometimes ain't all that it's cracked up to be. It can be as lonely at the top as at the bottom of that corporate tree. Now you're flying. I'm told I'm going places. Who can say? Really flying. I might arrive, but I'll be gone the very next day. I must be on my way. Mille miglia lontano, niente di più emblematico. Riflettevamo come anche a distanza di 30 anni la straordinaria e scioccante semplicità di questi impianti elettroacustici ti portano effettivamente ed emotivamente molto lontano, in maniera così facile, così semplice, appunto. E niente davvero è più distante di questo da invece le architetture estremamente come dire multidimensionali della musica attuale, di tanti altri generi musicali. Vabbè, riflessioni ad alta voce. Credo che il microfono vada al Conte. Faccio partire il brano. Dimmi, sì, qua, fallo partire, perché tanto è bello lungo. Vabbè, e possiamo anche raccontarlo velocemente. Questi sono un gruppo neo attenzione qui, neo acustico americano del 2006, Akron Family and Angel of Light. il disco è omonimo, prende il nome dal gruppo, e è del 2006, e ce l'andiamo ad ascoltare per intero, insomma. Non si è rotto il ripetitore, eh? Ecco, Ron Family, sì, un gruppo di pazzi, con barbone lunghe, camicia a quadri, in mezzo ai campi con l'erba alta. C'era un tema, approccio, sì, molto molto molto diretto, sì. E beh, insomma, diciamo che di musica abbastanza diretta ne abbiamo mandata a ore, a settimane, direi. Roberto, tra l'altro, era uno che non, davvero non si è risparmiato ancora nulla di più, da questo, sì, punto di vista. E però ogni tanto succedevano delle piccole magie che lui istintivamente un po' rifiutava. Io mi ricordo che mi ammazzava sempre di schiaffi ogni tanto quando proponevo queste pause, no? di ossigenazione. Che però poi alla fine, in silenzio, apprezzava anche lui, perché insomma a un certo punto, insomma, per quanto mi riguarda, parliamo anche di poesia in musica, insomma, dei gioielli, delle, certo, cose, delle stelle che oggettivamente era difficile, esatto, non apprezzare, che, sì, capitavano raramente, insomma, nello scenario, nell'immaginario di quegli anni. Lui era un giovane britannico abbastanza affascinato dalla cultura del sollevante, quindi parliamo di... Posso pensare che sia Julian Cope? No, siamo però io... Innamorato del sollevante? Innamorato, sì, del sollevante, è un mini quiz. Devo dire che, così per inciso, che la scaletta che ascoltate il Caronte me l'ha delegata, nel senso, l'ha scelta lui, l'ha assolutamente compilata lui. Però fattivamente poi non ho i mezzi, no, il problema, dicevo prima, poi parlando con Conte Max, è che quando te vai a scaricare i file, insomma, cioè, con i vari programmetti che si trovano in rete, questi ti aprono, cominciano ad aprire offerte varie, malattie di tutti i tipi da curare con qualsiasi cosa, tutti pop-up di pubblicità assurde, come fare i soldi con i bitcoin, siti pornografici, insomma una roba, un vero sacrificio che tra l'altro spoetizza completamente poi l'assetto della scaletta che si va via via scaricando. Questa intanto l'abbiamo fatta partire, ma poi la mettiamo da capo, da capo, assolutamente. Non merita tutto ciò che, però di che parliamo? I mini quiz, dicevamo, giovane britannico innamorato del sole levante. Stiamo parlando dei Japan. Stiamo parlando di Dave Sylvian, che come sapete ha collaborato anche con Ryuichi Sakamoto, ma qui era da solo con i Japan. Questo è davvero un fantasma del passato, ma una roba secondo me che apre la mente, apre il cuore. Qualche giorno fa ho riascoltato Brilliant Trees da solo, insomma, di David Sylvian, Brilliant Trees, bel disco. E tra l'altro il fantasma ce l'abbiamo qui in, non si può dire in carne e ossa, ma in fatti vapore. Sentire, saluta gli ascoltatori. Ecco, Aleggio. Bene, David Sylvian con il Japan e il loro Ghost, va da capo ovviamente. Thank you. Va bene, questa era appunto una perla, diciamo. E insomma, certe volte queste atmosfere che non possiamo non dedicare a tutti quelli che stanno male in una vita in affannosa ricerca di raggiungere dei grandi obiettivi, e in questa confusione probabilmente ci si perde, insomma, l'essenza del quotidiano, che appunto è fatto di ricerca del dettaglio, di impianti fondamentalmente semplici ma puliti, lineari, che liberano appunto la mente. Ecco, a tutti quelli che si trovano in questa situazione emotivamente parlando, dedicavamo questo fantasma di Dead Silvian e dei Japan. Ma altrettanto diretti, altrettanto pronti per affrontare le problematiche che magari ricordava Sandro, e questi cinque pazzi dei Cramps che ci andiamo a ascoltare scaricavano la loro adrenalina, la loro rabbia in maniera diversa. Sentiamoli. Poi vorrei richiamare all'ordine il professore, sì. che non ricorda che qui siamo a microfoni aperti e lui gira per lo studio e fa caciara. Forse vale la pena ricordare che questa è Radio Onda Rossa, che sono le 22.57 e che questa radio va in onda sulla frequenza di 87.9 della banda, si diceva una volta, Roma, in FM di Roma e del Lazio, ma ormai anche di tutto il pianeta, il sistema solare che si connette al World Wide Web. Fino al 2002 era Next Time, e sì, dal 15 febbraio del 2002 è diventata 25 O'Clock. Quello che le accomuna è sicuramente l'accozzaglia musicale, questo non è cambiato, che ha avuto più o meno la pretesa di avere diciamo dei punti di riferimento, a volte degli schemi, ma insomma fondamentalmente è sempre stata un'accozzaglia musicale. Ha ruotato intorno al punk, ha ruotato intorno alla nuova e vecchia psichedelia, ha ruotato intorno al grunge, a tantissimi generi musicali, ma fondamentalmente 25 O'Clock è comunque, come dire, quello spazio ricavato in un tempo fuori dal tempo, una roba che accade un po' per scelta, un po' perché forse deve accadere. Va bene, di nuovo atmosfere ballabili e di nuovo in Australia. Questi, vabbè, dai, li ricorderete senz'altro tutti, però insomma, roba che frizza. È stato autorizzato l'innalzamento del volume in sala, attenzione. Questo è un buon segno. È un buon segno. Non so se è l'alcol. Festeggiamo anche l'orco che ormai, due piani sopra, che non, insomma, sembra non scenda più da tempo. Zitto, che non si sa mai, non si sa mai. Dai, questi erano i Lime Spiders. E dall'Australia dove andiamo? Se non c'è nulla di pronto, io vado agli Stati Uniti, torno sì, da quest'altra parte. Poi torna il professore, sì. Poi torna il professore, perché lì il posto piange. No, non che tu non renda bene, perché anzi, devo dire. Dai, che sta salendo pian pianino. Vabbè, allora, zitti, questi sono i Naked Prey. E insomma, il brano è anche emblematico, anche questo, direi. What price for freedom? Qual è il prezzo che paghereste per la vostra libertà? For freedom, till the man's alone. Your time has come. Can't you feel the cold wind blow? Il dolore lancinante che emerge dal profondo degli animi dei Naked Prey con questi accordi che strillano, che urlano vendetta, chiedendo appunto quale sarebbe il prezzo che siete disposti a pagare per la nostra, per la vostra libertà, ammesso che ci sia un prezzo per tutto questo. Ma qui attenzione, perché il professore ci surclassa, ha fatto uno sgambetto e senza saperlo vorrebbe dare seguito a quello che in realtà era un po' un rituale, insomma, no? Quindi com'è adesso andiamo a Lancer, perché abbiamo alzato il volume, sì, della casa. Esatto, ecco, va riabbassato. Allora va riabbassato, un momento solo, Eccole di nuovo. Andiamo meglio. Andiamo molto meglio. Sì, la faccenda è molto semplice. Sì, ripetiamo un rituale solito di tante e tante sere passate qui negli studi di Onda Rossa quando c'era Next Time, e a un certo punto volavano schiaffoni, partivano sgambetti, oppure si parlava, come dicevamo poc'anzi, ma si è buttato o non si è buttato? No, ma si vede un puntino che si butta. Sì, forse non si è buttato, ma insomma alla fine non si sa. Il problema è che si convergeva sul fatto che poi buttato o non buttato fosse comunque un facchino, insomma. Esatto. E c'era anche un concorso, perché questa. Sì. C'era il concorso Bozzo del Patata. Bozzo che, del Patata. Che si lanciava. Però non era per forza contemporaneo a quest'altra ritualità. Ma questa alle ritualità volte lo ricordava. Mm. Il concorso Bozzo del Patata, che poi qualcuno di voi ricorderà, era. Dava diritto alla. Alla lisciata di capo. Ma qualcuno di voi se lo ricorda poi cosa fosse nel concorso questo Bozzo del Patata? Assolutamente no, lo sapevi solo te. È un po' brutto a dirsi, speriamo che. Speriamo che. non è quello che pensate. Pensate, ma speriamo anche che non siano più all'ascolto i genitori con Alessandra, ma insomma lo possiamo dire perché alla fine il boss del patata era appunto una voglia di proiettile. E invece, ci serve pure da occasione, e sono contento che richiamo, perché poi tutto sommato un'altra persona andiamo a ricordare proprio con la cosa che stiamo mandando, è colui che mi fece conoscere loro quando io avevo 16 anni, lui forse 19, e sentivamo, ve li ricordate, i doppia piastra, no? Quelli che servivano poi per registrare le cassette, per duplicare le cassette. E quello era il massimo dell'apparecchiatura che avevamo per ascoltare musica, e mi fece conoscere loro, insomma, andremo e sveleremo quindi il mistero, e mi fece conoscere, già li conoscevo, erano i tempi di Mr. Fantasy, tutte queste robe qua, e quindi giravano queste cose, giravano i primi videoclip su queste trasmissioni di Via 3, quindi avevamo, oltre alla radio, dove raccogliere le nostre informazioni, diciamo, di tendenza di quegli anni. Ecco, questo compagno mi fece conoscere, mi duplicò per l'esattezza la cassetta dei Clash, che lo voglio ricordare, è una cassetta che avevo trovato per terra, l'ho cancellata, cioè l'ho ancora, era quindi senza la custodia, e ho duplicato London Calling e poi ridipinta a mano una parte bianca, una parte nera, una parte rossa, con i titoli scritti piccolissimi sopra la cassetta. Ecco, un piccolo cimelio veramente dei 16 anni. Questa persona, Alessandro, giornalista e docente di italiano in Russia, negli ultimi anni l'avevamo perso di vista da parecchi anni, purtroppo ci ha lasciato anche lui una ventina di giorni fa, e per cui non possiamo che dedicargli, associato alla ritualità che Next Time portava, riportava con quanto andremo ad ascoltare, non lo annunciamo penso, e mandiamo tutto un saluto a Patata, un saluto a Alessandro che ci hanno lasciato. Un bacio ai ricordi di tanto tanto tempo fa. Ebbene, questi erano gli Eskimo Verdi che si scontravano con i giacchetti di pelle dei Rockers e alla fine c'era una lambretta che si scagliava dritta contro le scogliere di Dover, a bordo della quale c'era appunto il facchino. Love Rain on Me, Roger Daltrey e You. Purtroppo non è andata così, l'amore non ha regnato, diciamo così, immancabilmente su di noi. E insomma, ricordi da appunto speciali Babbo Nasali, quasi quasi ci scappa la crinuccia, quindi bisogna lanciare altro, altrimenti rimaniamo incagliati, diciamo, in questo percorso che poi non finiva mai, perché quel finale, il finale di quel film si vedeva questa lambretta lanciata, ma alla fine non quasi finiva. quasi interminabile. Bene. Che bello, lo facciamo con gli Screaming Trees. Ash Grey Sunday, una domenica grigio cenere. Saltellando, e niente, dai cori bellissimi degli australiani agli urli e i deliri emiliani. Paranoici, direi. Paranoici, vabbè, hanno sfiorato proprio la pazzia totale, ma la paranoia. è rimasta. Beh, diciamo, c'è mancato poco, insomma. Una bella contraddizione, sì, li ha attraversati, quantomeno a Giovanni Lindo. No, no, poi, lui, a parte lui, a parte lui. Solo lui. Perché. E comunque ce li riportiamo comunque a casa, perché questi brani a quel tempo e ancora adesso hanno rappresentato moltissimo per noi. Giù il cappello, direi, assolutamente. Riportando tutto a casa. Partiva umanità, che per chi era sotto il palco in quei periodi c'è gente che schizzava in tutte le direzioni. Quelli leggerini dovevano stare abbastanza attenti, sì, perché finivano direttamente sul palco con gli anfibi piombati. Possiamo però ricordare a tutti quelli che, insomma, come noi sono sopravvissuti a quelle notti di violenza, però socialmente comunicativa, notti di alcol e musica a 120 decibel, che probabilmente adesso, non so voi, ma come me, insomma, che non ci sentono quasi più. nottate che non sappiamo bene se stanno tornando, se torneranno, se... No, sinceramente non ne abbiamo notizie. Direttamente non più, insomma, però probabilmente ancora va. Certo, non ci sta più il Blitz aperto, ma insomma, è un'altra storia. Ricordo al Gibbone, ovviamente. Che nottate, ragazzi. Molti di noi stanno ancora aspettando probabilmente questa emozione sempre più indefinibile. Va bene, mentre aspettate. Dalla paranoia direi dissonante, non so se concordate con me, ma qui ci sono molti accordi dissonanti. Concordiamo che discordante. Dissonante. Allora, assoniamo che è dissonante. Potremmo aprire un dibattito, ma non lo facciamo, perché invece ci concediamo un'altra, come dire, un'altra boccata d'ossigeno. Loro erano, chi lo sa, i Jane's Addiction, sicuramente lo erano, e parlavano di Jane che diceva un sacco di cose, in particolare iniziava raccontando che l'aveva fatto con Sergio, insomma, beata lei. Vediamo adesso che versione avrà scaricato il professore, eh? Vediamo un non lo so, c'è un disco, potrebbe essere forse... una sorpresa. Mi sembra quella da studio classica però, eh. Beh, io qua un trillo me lo faccio da solo, abbiate pazienza. Che spettacolo. Yeah! Va bene, è dura. Io ancora il vinile dove l'amore nostro appoggiava le bottiglie di birra, dove c'erano segni inevitabili di unto, di croste. Non si capiva più se erano quei dischi che spaccavano le testine o se erano le testine consumate che spaccavano i dischi. Una roba per chi ci teneva fin troppo da portarti via l'anima, ma a noi francamente ce ne fregava. E questo era uno di quei brani veramente scavato sulla plastica. Dico semplicemente che è dura perché, diciamo, nella rigidità del momento e dei nostri tempi, francamente non sono rimasti più molti spazi, ecco, per lasciare andare le emozioni come succedeva tanto tempo fa, perlomeno in queste trasmissioni. Allora, adesso un'altra, veramente un'altra perla. Ancora giù il cappello, lui è sempre il giovane britannico, quello di prima. Qui le influenze di Sakamoto sono davvero molto molto spiccate. Portiere di notte, Night Porter. vabbè, insomma è molto difficile anche riuscire a trasmettere uno dei tanti pensieri che corre alla mente, insomma, scandito dai ritmi assurdi e folli della vita di quegli anni, soprattutto in questa radio, in quella trasmissione, in cui si partiva, diciamo, con atmosfere assurde, battiti cardiaci oltre i 120 al minuto, per poi raffreddare gli animi con queste, appunto, queste chicche, queste perle. Calava sia il ritmo cardiaco sia il freddo nelle stanze, che poi di nuovo veniva riscaldata da una macchina che magari passava a raccogliere i compagni perché qualcosa era successo per strada e quindi bisognava correre da qualche parte. Ecco, con tutte queste emozioni addosso si mollava ogni volta e si passava da un contesto all'altro senza davvero soluzione di continuità, una roba che non trova veramente un minimo ambito per rispecchiarsi, almeno nella vita di oggi, di tanta gente, almeno io parlo per me, poi. Così come a quei tempi, insomma, si passava così improvvisamente da un battito accelerato a mentre prima si sentiva una canzone bella come quella di David Sylvian. E effettivamente quello che dice Sandro è una delle cose più importanti che in quegli anni, quando stavamo qui, che facevamo la musica, che mettevamo la musica, era la diretta continuazione di quello che si faceva ogni giorno. O se si andava all'università, o se si faceva una riunione, o se si viveva in famiglia, insomma. E quindi era veramente unica quella sensazione, e tutto quanto rientrava anche in quelle serate, anche nell'ascoltare i brani, nel sceglierli e nel condividerli, anche magari all'inizio senza la perfetta sintonia tra chi trasmetteva, ma c'era una sincerità fortissima e questo superava ogni barriera. God Machine, questo è dedicato a Jimmy Fernandez, un loro vecchio amico e compagno di suonate, e ci ascoltiamo questo Tremelo Song. Qui siamo nell'entroterra californiano. Non è un tuo errore, non te ne fare una colpa. Dica. Lo dica, lo dica. Non era questo che avevamo selezionato? E in che senso? È la traccia giusta. Tino e Trop. Assolutamente sì, è sempre giusto. Tino e Trop. I know you're confused and wonder word for everything you see, but watch her when she comes to parties, glowing like the third degree. It's not your fault, it's no fault at all. She only Tino e Trop, not your fault. C'è un qualche rumoraccio di fondo che non so cosa sia. È bellissimo, è una batteria. Una batteria sì. Elettronica, diciamo. Va bene, i microfoni sono aperti. Sono aperti perché stavolta restiamo in California, Chius, dal deserto, diciamo dalle colline a attaccata al deserto dei Teen White Troop, al deserto rosso. Questo era uno di quei gruppi che ogni volta che portavo qualcosa si scatenava l'inferno. E questo è un disco del 1992, Blues from the Red Sun. Che il brano, il brano è, e non mi ricordo mai, Somewhere Yesterday. È bellissima la scaletta che ha preparato il Conte. Ma questa è una cosa artigianale, spettacolare. I Chius non sono da Conte, però. Adesso. Beh, insomma, ogni tanto. Non è detto. Comunque, volevo fare i complimenti al professore che se la sta proprio godendo. Mica scemo. Non lavoro, cioè, no, ormai è pure. Ma per me è veramente contento della nostra presenza e questo mi rinfranca molto. Ci sta prendendo anche un po' per il culo, non so se ti è chiaro. Forse. Perché comunque 25 o'clock è quello che era next time. Insomma, è tutta la stessa, è sempre la stessa cosa, insomma. Un'accozzaglia musicale. Un'accozzaglia musicale intorno alla quale giriamo. Intorno, sempre. Senza sempre arrivare mai al punto. E con le orecchie e gli occhi sempre bene aperti. Sempre. Allora, attenzione, questo era un altro rituale, qua ormai al termine, quando il frigo bar era vuoto, questo andava sempre alla fine. Qui andiamo in Germania, eh? Qui andiamo in Germania. E Alchemy of the Heart era un titolo che proprio, ecco, Roberto odiava, diciamo. Però devo dire che in questa circostanza qua, forse ormai superati dall'alcol, superati da dalla stanchezza ci poteva sta, spegneva la luce e accendeva il ventilatore, che non c'è più tra l'altro. Il Moscone, Moscone lo chiamava. E questo spesso d'estate si ascoltava anche sdraiati a terra con la faccia rivolta verso il Moscone e senza maglietta, sul pavimento della radio, che è sempre stato lindo e pinto. Perché peraltro poi il Moscone aveva, se non mi ricordo male, aveva una lampadina prima della pala che creava un effetto stroboscopico quasi, quindi è una roba, diciamo, questo però ti portava via, insomma. Non so quanto ce ne rendevamo conto, comunque, vabbè, di questo particolare, però. E soprattutto come questa roba possa venire dalla Germania, uno rimane un po' interdetto, eppure è successo. Beh, però, insomma, anzi, qui si erano portati proprio sulla vena. Mi faccio capire quello che suono, perché sì, prima avevano fatto le cose visionarie. Prima avranno fatto, penso, 40 album, non lo so, penso ci sono tutti i generi musicali dal dopoguerra a oggi di una discografia di Tangerine Dream. Questo effettivamente era uno particolarmente, tra i più lineari, melodico, dicono gli accademici, dicono più melodico. In realtà una struttura, secondo me, emotivamente molto bella, molto valida. Però lo dobbiamo sentire da capo. Dici? Eh sì. Ma c'è pure un inizio un po'. Vabbè, ma proviamo, vediamo che succede. Senti come ho agganciato tutto. Come screccia. Eccolo. bene, insomma, una ricerca di sensibilità, armonia e temi veramente inusuale. Ragazzi, siamo col microfono aperto, vorrei ricordarvi che io apro sempre anche quello dall'altra parte, ma a voi non frega ovviamente un bene amato, come si dice. No, sì. Parlavamo dei Tangerine Dream, che appunto in questa circostanza, diciamo, hanno mostrato una ricerca assolutamente inusuale di sensibilità, armonia, insomma, con, veramente un po' particolare per Tangerine Dream, per chi li conosce. Ma detto ciò, se si è fatta una certa, è mezzanotte 1 e 30 secondi, e quindi credo che stiamo per giungere, insomma, al rush finale, per cui la parola è anche la musica del Conte. Che diciamo? Sì, no, ci hai preso alla sprovvista. Vorrei che, vorrei che il professore. No, io sono. Ma io non è cattivo. Allora è molto facile, perché portiamo a casa pure questo, perché questo è un pezzo italiano di un gruppo dove l'espressione musicale, la poesia, l'impegno politico e la visione della vita ci appartiene, ci apparteneva, ci apparterrà sempre, tra scelte di autoproduzione e comunque non vergognarsi di dire quello che si sente. Questo brano si intitola Canzone Urgente e il gruppo è quello degli Ishi, credo si pronunci così. Compagni col tuono delle onde che canto dentro le notti più nere, sulle spiagge vendute al cemento, le false chiese, dentro il sonno di lavoro operaio, nelle marce barriere, io canto la morte nei cessi in stazione, canto le mille africane sui tram, con un destino comprato poco da un signore nascosto dietro ad un finestrino, comandando un mercato da solo, porta Cristo e il vaiolo, io canto la pace portata a Baghdad, compagno canto degli occhi di un nino, seduto in mezzo a due sbirri, Mirafiori, Bovisa, Re Bibbia, San Paolo del Brasile, lo porto via, lo prendo per mano, accendere un fuoco poi sparire. Va bene, questa che sembra una marsigliese in realtà non lo è. Atmosfere sicuramente più sobrie, sia dal punto di vista dell'impianto musicale, ma anche, se vogliamo, nella profondità del testo. E tuttavia i Dedé, con la loro semplicità, ci ricordano che questo è il giorno, this is the day. Qualunque cosa sognate, qualunque cosa vogliate fare, il giorno è sempre questo, non rimandate. Reading some old letters, you smile and think how much you've changed. Come dici? Eleganza po'. Couldn't buy back those days. You call back the heavens and the sun burns. see your eye. You watch a plane flying across a big blue sky. This is a day. Va bene, oltre ad aver tossito col microfono aperto, stavo dicendo che ho colto il professore impreparato che fa lo spiritoso. Diciamo la verità, fa lo spiritoso. Vai, vai, vai, che è aperto il microfono. No, dicevamo, stiamo in discesa, insomma, vogliamo chiudere, siamo anziani, mezzanotte, la scarpetta. Scusa, l'anno scorso volevi chiamare la polizia. Sì, certo. Dai, questa cosa qui è cattiva, proprio la polizia. Al limite chiamavo il signore qua sopra, l'orco. Vabbè, era una battuta acida, appunto. No, dicevo, dato che andiamo in discesa, vogliamo prima mandare la vecchia sigla. Ma stasera sorprese vai. Nelle sorprese, però attenzione, è bravo il professore. You watch a plane fly across a clear blue sky. This is a day. Allora, fa lo spiritoso, fa lo spiritoso, ma ha sbagliato disco proprio. Pensate, adesso la raccontiamo tutta, Allora, lui voleva mandare la storia del soldato, del fantasma soldato immaginario. In realtà mi ha passato un disco di Nick Cave. Nel frattempo siamo andati lunghi, però intanto passano i Three Jones, attenzione. I Tre Giovanni. Feeling coming in like a rushing wind. Ha fatto lo spiritoso e non l'ha neanche portata. Like a heedless baby. Teenage nightingales to end. Va bene, allora ha dovuto ripiegare, insomma, sul mondo dei dati. né DVD, né CD, né vinile, ma appunto una stringa di beat. La storia di un soldato immaginario ci ha accompagnato davvero all'inizio e al termine della Next Time per tantissimi, tantissimi anni. Era diventata un'icona con la quale ci riconoscevano in molti. Stiamo parlando di Stan Ridgway e la bellissima, inimitabile Camouflage. Dove siete andati, che siete scomparsi? Tutto a posto? Vale. Sì, sì, piccola sottoscrizione. In diretta. Conte, grandissimo. Ma piccola, però. Ha lasciato il suo. Quanto è. Bene. Quindi l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Online. Stringa dei dati. Vabbè, certo. Sì. Vergogna. Questo non si doveva fare a Camouflage. Ha detto basta che spingi play e va, ecco. Ecco fatto. E allora Camagenna se lo fa da solo. Mamma mia, quanto è bella, ma quanto è bella questa canzone. The wars of 65. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes. Allora forse però possiamo riflettere su una cosa, perché io ho questo ricordo. L'amore nostro diceva che c'erano diverse versioni queste. A parte quello, ma diceva che questo fosse il brano che avesse ispirato il titolo di Next Time. E sosteneva anche che perché ci fosse certo una strofa, un passaggio, una strofa dove si cita, ma io non l'ho trovata. No, io non me la ricordo così la storia della scelta di Next Time. Perché fu ancora più casuale, per quello che ricordo io, agli esordi della redazione di Rumori Molesti. C'era il movimento della Pantera e c'erano 50-60 persone che passavano ogni sera in radio dalle facoltà occupate o in via di occupazione, e da lettere e da scienze politiche. A un certo punto venne un compagno, Sandro, me lo ricordo ancora, e una specie di lotteria del nome della trasmissione portò lui questa scelta Next Time. Fra l'altro lui suonava pure, era il bassista degli Underground Arrows. Insomma, non c'entra proprio niente. Io ricordo questo relativamente alla scelta di Next Time. Però ogni tanto la tirava fuori, sì, è la vero. Genesi che anche sì, forse più il periodo in cui è stato con te. Io poi non c'ero in trasmissione, quindi magari. Io ho questo senso, questo ricordo, diciamo che. L'avevi già detto altre volte. Ah, sì. L'avevo già detto. Sì, sì. Però è figa sta cosa, perché è un piccolo mistero. Cioè. Rimane storicamente. Potremmo lanciare un concorso. Sì, qual è la vera genesi? Se i stessi protagonisti non se ne ricordano, cioè io. Potrei ricordare pure altre cose. Effettivamente. Testimoni inconsapevoli, potremmo dire. Comunque. Non eravamo presenti a noi stessi, evidente. No, probabilmente no. Però, certo, è una storia. È un piccolo avvenimento che la dice lunga su come si svolgevano le cose, come nascevano, eppure come siamo diventati un po' rincoglioniti comunque. Penso che Sandro, pure ringraziamo professore per l'ospitalità. 25 o'clock è sempre casa nostra. Beh, è un bel momento, devo dire. Veramente, la verità, è veramente contento ogni volta. Ovviamente, poi ce lo diciamo da soli, quando avete delle idee, ovviamente, esatto, non è che è necessario aspettare, anzi. Anche perché per noi è un ricordo continuo, come dicevamo prima. Quindi un saluto ai compagni, alle compagne, a chi ci ascolta e magari non può decidere di fare quello che vuole, e perché comunque è privato di molta libertà. E niente, Radio Onda Rossa ancora suona, e grazie a tutti. Buonanotte. Bene, lungo e stretto l'abbraccio all'amore nostro, il piccolo grande uomo, un nano malefico. L'abbiamo amato con tutto noi stessi, chi ha vissuto con lui non poteva fare diversamente, era così, o così o non poteva essere diversamente. Insomma, dicevamo all'inizio, non abbiamo più lacrime, ma ci piace ricordarlo ancora davvero con tanto tanto affetto. This was an awfully big parade. So next time you're in a jungle fight and you feel a presence near or here. Ma c'era la citazione next time. È appena passata. Just be thankful that you're not alone. And you've got. Oh, l'ho cercata, giuro. From a big marine, boys call camouflage. Una roba incredibile, è un golem, è un flash. Va bene, portatelo con voi, il vostro camouflage. again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Dreams under a communist moon.